si era parlato, no, nel suo esordio, di un Draghi keynesiano, non se ne è vista traccia. Le iniziative che ha portato avanti sono state tutte quante volte a ridurre l'impatto, anzi, delle poche iniziative che erano state fatte in passato per limitare quanto possibile, e anche secondo al giudizio delle associazioni, insomma come la mia, pochino l'impatto del Covid sulle persone più indigenti. Penso una per tutte alla progressività dell'imposizione che è diventata una flat tax, o alla famosa vexata question del catasto, piuttosto che ai fondi del PNRR che sono rimasti gli stessi, piuttosto che all'indegna discussione sul reddito minimo di cittadinanza, rispetto alla quale Draghi non ha mai mosso neanche, insomma, un ciglio, né per interromperla né per dirigere il dibattito nel caso, in una sua qualificazione. Peraltro, insomma, appunto, le associazioni avevano sempre detto che era uno strumento imperfetto, ma che comunque era stato un paracadute. L'altra cosa importante da dire è che questo doveva, se era un vero governo tecnico, avrebbe dovuto ricominciare dalle strategie. In realtà noi non abbiamo avuto nessuna strategia, come sempre, di sviluppo industriale, di valutazione dell'impatto, appunto, delle crisi sommate. Abbiamo avuto così dei regalini fatti ad alcuni settori, anche dei settori abbastanza così strani, penso a quelli dei brevetti, per i quali sono stati stanziati milioni di euro per il rafforzamento e il presentamento di progetti del tutto privati. Penso alle infrastrutture, rispetto alle quali c'è stato, appunto, una scarsa attenzione a ciò che c'è veramente bisogno nelle città, e c'è stato invece tutto quanto un rilancio di politiche assolutamente anche anti-ecologiche. Si è risposto alla crisi energetica non con il risparmio energetico e con le rinnovabili, di cui ancora aspettiamo i decreti, ma appunto rispolverando addirittura il carbone, andando a fare lobby in Europa perché non si mettesse una fine corsa ai motori a scoppio. E nel frattempo però grandi impianti in Italia si lasciano alla mercé delle delocalizzazioni. Non c'è solo GKN, ma ci sono 10, 100, 1000 di questi casi, l'ultimo proprio pochi giorni fa. Quindi se questo doveva essere, appunto, un governo delle risposte, a me sembra che un governo sia stato un governo essenzialmente delle marchette i soliti noti, con una scarsa trasparenza, con una grande difficoltà per noi associazioni di partecipare, anche di capire che cosa si venisse bollito in pentola, e con delle brutte sorprese. L'ultima che posso citare, penso, appunto, la postura dell'Italia al G20 rispetto ai vaccini e alle, diciamo, non soltanto appunto ai farmaci, ma anche alle mascherine, a tutti quanti i dispositivi. Noi avevamo chiesto che l'Italia fosse, tra, appunto, come presidente del G20, tra le realtà che promuovevano la sospensione della protezione dei brevetti su tutte queste cose, per permettere anche ai paesi più poveri, ma anche, diciamo, alle città nostre più povere, di potersi permettere una produzione locale di questi presidi. In realtà tutto questo non è stato fatto, anzi prima Draghi aveva dato, insomma, una strizzatina d'occhio nel momento in cui c'era stato un tweet di Biden in questo senso, dopodiché si è rimangiato tutto. E anzi, veniamo a scoprire dal nostro governo che secondo loro i brevetti sono la migliore modalità per diffondere l'innovazione. La classica privatizzazione, la classica lenzuolata delle privatizzazioni che conosciamo ormai purtroppo da 20 anni, i cui esiti stiamo ancora pagando, soprattutto rispetto all'innovazione del paese. Quindi secondo me e secondo noi, insomma, Draghi è bocciato su tutta la linea. Non ho grandi speranze però che ci sia, diciamo, Keynes dietro la collina, anzi temo un Draghi bis balneare che addirittura utilizzi questa crisi per rafforzare la sua postura privatistica e mercatista. Questo sarebbe veramente un disastro nella fase sociale che stiamo vivendo, con 1,5 milioni di persone che sono entrate nella povertà da assoluti debuttanti proprio per l'inerzia del nostro paese. In questo momento di crisi economica e di inflazione, cosa potrebbe e dovrebbe fare subito un governo attento alla questione sociale? Beh, innanzitutto capire chi lavora, quanto lavora, dove lavora, fissare in modo, diciamo, negoziato con i sindacati un piano, e con le associazioni un piano strategico d'attacco rispetto all'occupazione, alla qualità dell'occupazione. Chiaramente tutto questo non si fa senza senso un piano di sviluppo industriale che in Italia manca da almeno 20 anni. Non si fa con un piano industriale che guarda al passato e quindi al carbone, al gas, ai rigassificatori e ai termovalorizzatori, ma si fa guardando al futuro con l'economia circolare, con l'autonomia energetica e soprattutto con una filiera, diciamo, se non proprio nazionale, quantomeno regionale delle rinnovabili. Abbiamo visto che le filiere lunghe sono molto fragili e sono molto esposte ai rovesci del mercato internazionale, che possono dipendere dalle pandemie, ma anche dal clima, come abbiamo visto, ma anche appunto dalle crisi politiche, che in una situazione come questa non potranno che moltiplicarsi. E francamente, diciamo, non abbiamo bisogno di conflitto sociale in questo momento, avremmo bisogno appunto di una programmazione che guardi al futuro e non di una programmazione che guardi al passato, ma neanche, parliamo appunto dello scorso secolo, ma addirittura proprio all'Ottocento e alle miniere di carbone. Quindi dovremmo appunto provare ad essere per una volta innovativi, avanzati, coraggiosi e chiedere anche ai socialdemocratici di questo paese, come dire, di mollare le ancore e lanciarsi almeno verso il socialismo del Novecento, se proprio non riescono a fare di meglio.